Yeah, no, that ain't it. I need like a single conductor wire about a, it's not a real heavy gauge, about a 12, 14, 10 gauge. Okay, all right. I appreciate you checking it out. All right, now let me get up here to this wall. I'll play. Проверка встречного волна. Отрисовка системы азота. Проверка эрмистики платформы. Производится приятно к полной проверке системы вашего платформа. Можем работать. Доставим за год. Casino, ga. Ciao. Ma Giulio, buonasera. Ciao tu. Che cosa che ti è successo? Ti ho addormentato, vero? Non mi sono addormentato. Ah, ancora non ti sei svegliato bene? No. Che fende casino, bip. E boh. Ma chi so, da dove va? Ah, ma io ero un bravo ragazzo, solo che voleva solo giocare. Vabbè, lasciamolo giocare. E chi se ne frega? Se vuole giocare, lasciamolo giocare, nessuno glielo impedisce. Capo. Oh, già. E allora? E allora, mi. Oggi niente, passeggiata a casa, non avevo voglia, sono rimasto a casa, non sono rimasto. Stamattina mi sono occupato, no, oggi intanto non ho lavorato domani, e mi sono occupato a questo d'ora, ci mi sono la notte, mi sono occupato in chive. Ah, sei andato a produttore, sei morto? Io ci ando spesso lì. Sono stato un po' a Platamona, poi mi sono andato a Pucciudorra. Capito, sì. Ehi, è fatto bene, la giornata già era bella oggi. Per cui già va bene andare in moto. Fu anche se fosse stata brutta, se devi andare al lavoro, ci devi andare lo stesso. Ah beh, quello senz'altro, non ci sono dubbi. Ma voglio dire, oggi la giornata già... Non dava preoccupazione, perché intanto la giornata era bella, soleggiata tutto il giorno, tranquillo e pacifico. Capo, sono andato un po' lì, ma ci ho fatto una magnata di bassasciuta. E poi me ne sono andato a Sassari, e avevo preso a Gabriele. Cosa siamo? Hai fatto bene. Ha fatto una bella mangiata di bassasciutta. Oggi io mi ho fatto una bella mangiata di lumaconi. A te ti piacciono i lumaconi? Sono curati che non ne mangio. Vabbè. questo è un buon buon come non ti chiedi fare la strada, ne compro sempre io qui alle punti. C'è un negozio, uno che ha un negozio anche a Sassari, anche a Porto Torres le vende, ha un negozietto anche a Porto Torres, e compro sempre, vede proprio di lusso. Tanto adesso una cosa, hanno marcheggiato un chimio, però un marcheggio di rimoto allo corso, c'è nel Giappone Toros, però c'è uno che conosco e mi sono confermato in chimio. Ha detto macaroni, va, fai il macaroni, vai, non ce l'ho fatta manca a mangiarmeli tutti e via. E a buio, sono costato un po' che mi sono combattuto. Ehi, vabbè, hai fatto bene. Hai fatto bene, d'altronde cosa ci vuoi fare? Oh, yeah, cosa dire, cosa dire, cosa ti posso raccontare? Nulla, non nessuna novità, non c'è nessuna novità, sempre uguale. I giorni sono sempre uguali, per cui quando è in pensione ha poco da raccontare. A rimane non un po' carro me ne farà un motore in terra. Ma è roba da macchina. Come te hai detto di non farà un motore in terra a motocarro? E quale motocarro avevi? Perché? La Pepocker, quella a quattro ruote. Cazzo, arrivo in chi per all'incrocio. Inviati di un fino, guarda. All'incrocio chi mi via Carlo Felice e non gli rende male fuori dove i conti sbadabum cata inteso praticamente si è spaccata la staffa dove regge il motore e se ne è sceso e ne faranno vabbè poi l'abbiamo addrezzato un poco e meno male che si è bloccata subito la moto se no abbiamo fatto un danno, gatta che manco quattro, però non è stata colpa mia perché si è rotto il supporto. Beh, quando succede così, che aspetta, siamo a posto di fare il motore in terra. Meno male che non ti ha fatto sbandare, non ti ha fatto niente di grave. Vabbè, comunque, tutto risolto adesso. Si è spaccato proprio dove c'è la carrozzeria, cioè... praticamente c'è un supporto centrale, anche la 703 ce l'ha, c'è un supporto dove c'è tra la testata, ecco, cioè, dove c'è un bullone solo che regge, però non si è rotto dal bullone, si è facendo dalla, dove c'è cosa la carrozzeria e quindi il motore è sceso, non entrava più in marcia, c'è cioè, sbada boom boom. Ma cosa cavolo è successo? Caspita, ma si vede che il pezzo della saldatura della staffa è la marcia allora, dove c'è saldata la carrozzeria. Sicuramente era così, se no come fa a scendere il motore? Con le vibrazioni si spaccano, succede. Dite, cazzo, non dite troppi strati, così... ma cazzo, ma dove sei mai possibile non dare troppe strade? Io con la moto, cioè, per fortuna la conosco, ecco, c'è un pochino la conosco. E no, non vado neanche a dare strattoni e cosa. Un cesso, ma carità, ma no, non più, cioè quella tre ruote è tutta un'altra cosa. Ma non mi piace, ma carità. Oltretutto, no, sono pieni di difetti quelle app poker. Caspita, io ho avuto l'app per più di 35 anni, che ce l'avevo per il lavoro, per cui, una cosa che non mi è mai successo niente, la verità, sempre andato bene, anzi, devo dire che l'ho rottamata poi alla fine perché quando mi sono andato in pensione e te cosa me ne faccio della moto no, però forse ho fatto male, magari la potevo regalare a qualcuno perché la moto era sempre bella in ordine, andava benissimo, non c'era problema. Sono andato da Marcello e gliel'ho ecco, gli ho detto, io ho la moto carro così da rottamare. Fatto, però se vengo qua poi io lo, come faccio ad andarmene? C'è una porta, allora non si preoccupi, mi sveglia l'indirizzo e vengo io a prenderla. E sono venuti loro, ho dato l'indirizzo e sono venuti loro, sono venuti. La prima cosa che mi ha detto quello lì, ha detto, ma come me la stanno domanda? Perché non è una moto carro che usavo per lavoro, ormai sono in pensione, non mi serve più. Cosa posso pago 600 euro all'anno di cosa, di assicurazione, più il bollo, eccetera. Non mi serve più, cosa le faccio? Ho la macchina, per cui no, che problemi. Ma funziona, certo che funziona. Quando mi ho messo in moto ha fatto, ma mai da se funziona. Caspita, dicevo, un motore silenziosissimo, proprio bello. E glielo grido, l'ha caricata sulla macchina che hanno loro, con la caratteristica, e se l'ha portata via. E vabbè, e poi ho saputo che la usavano lì all'interno del magazzino, la usavano lì da loro, sì, no, se la usavano per il trasporto del materiale da un punto all'altro dentro il magazzino. Guarda, probabilmente il giorno oggi te l'avrei presa io, te l'avrei comprata io, cioè. Cioè, se la stavi anche. Ma per fatto il passaggio me l'avrei abbigliata io la moto. Ma te la vai regalata addirittura, per un po', se io avessi trovato qualcuno che voleva una persona tranquilla, eccetera, l'avrei anche regalata, cosa me ne faccia io? Basta che si facessero il passaggio di proprietà, basta, tutto il resto non mi interessava più. Cosa me ne facevo della moto? A tenerla in strada così. Non serviva più a niente, magari poi se ne salivano i bambini sopra, tante volte ho trovato una che le fa dei bambini sopra il cassone, tutti ballando sopra, tutti mi da un poco. Vabbè, era sempre in strada questa moto, io l'ho usata per più di 35 anni, forse anche 38, anzi senza forse. Per cui, già ne aggiungerà un poco di legname, sì, con quel motocarro, oppure consegnato lavori con quel motocarro, caspita. Ma avrà fatto viaggi, chissà, a Cotodorra, a Niarugo. Ma quelle erano buone, quelle moto, cioè, ma anche le tre ruote, tipo l'Apecar 703. Anzi, andavano bene, l'Apple Poker non è GCM, non è una grande moto. A voi se ne ha fatto dei bei chilometri, dei bei carichi. Ma io mi ricordo, ci mettevo più di un metro cubo di legname, scendevo a Porto Torre, la manetta lì alla strada Legname, caricavo 30-32 tavoloni di Pino di Svezia, ad esempio, che equivale all'incirca un metro cubo, 1,20 m cubo totale di peso, all'incirca 6 quintali più o meno, nonostante che quella peso non lo potevo portare, ma lo caricavo lo stesso e ne salivo tranquillamente, non c'era problema. Te sto dicendo, andava benissimo, non mi ha dato mai fastidio al motore. L'unica cosa che mi dava fastidio è che ogni po' di tempo, ma mesi o addirittura qualche annetto, mi si rompeva il filo o del cambio o mi si rompeva, ma c'era il meccanico lì vicino da me, me lo faceva anche gratis, era un amico, che puoi immaginare, mi sostituiva il filo, in 10 minuti mi cambiava il filo del cambio. E il filo dell'acceleratore, vorrei fare anche giunta elastico. Se facevi quei carichi, che cosa le facciamo? Che cose si facciamo? Le fili, ma per il resto non l'ho fatto mai niente, mai. Tu pensa che avevo iniziato, che prima se la vendevano la benzina, la miscela, no, al fornitore, quando pure hanno cambiato, il meccanico stesso, con il mio amico, col Murito, mi aveva dato un misurino, mi aveva dato, adesso tu fai così, quando metti la benzina, per dire, quanto ne metti? 10 litri, ecco, devi mettere questo tanto di olio al 2%, non ti dimenticare mai di mettere l'olio, e così facevo, infatti lui stesso mi dava l'olio, lo compravo da lui stesso, perché lui ce l'ha. aveva sempre l'officina, lo compravo da lui anche scontato tra l'altro, e dice prima di mettere la benzina ci metti un bicchierino di questi a questo livello, e tu per quello quando fai il rifornimento metti sempre lo stesso tanto, prendi 10 litri per dire, no, di benzina, e poi metti questo tanto di olio e non sbagli mai. E così ho sempre fatto, ma era una meraviglia, andava benissimo. Prima si vendeva, era con olio normale, poi si sono passati al sintetico che era molto molto molto meglio. Qualcuno ti dava, ti secondo ti dava un semisintetico per quella moto. Sì, e me lo dava lui, me lo dava, adesso non mi ricordo che marca era. Siccome lui lo comprava all'ingrosso, lo comprava, lo ce l'aveva sempre a disposizione in officina. E mi dava sempre una bottiglietta da un litro, dai, un flaconcino da un litro. E quando lo consumavo andavo di nuovo a lui, dicevo Giulio mi serve l'olio, così prendi, torni in quell'angolo lì, prenditelo, quanto si deve volare, non mi ricordo se lo pagavo 10 euro, 8 euro, boh, non me la metto più. Ma mi durava un bel po' di tempo una bottiglietta di olio. Buono, di la zia, te lo credo. Eppure io lo compro buono per la moto, no? Io compro, o uso Bardal o uso Motul. Qualche volta il Castle Power 1 Racing, ma non ho mai avuto problemi, no. Non ho mai grippato, non ho mai avuto problemi. Cioè più che altro uso il Bardal, più che altro ho Motul. Sì, per me il motocarro era di importanza fondamentale, perché per me era uno strumento da lavoro, oltre che da trasporto, perché tra l'altro viaggiavo anche tutto il giorno, quattro volte al giorno scendevo e salivo a casa, no, per andare a casa e tornare al lavoro. Infatti la macchina era sempre ferma, era tanto vero, oggi come oggi, ragazzi, la macchina addirittura non ha nemmeno 44.000 km, ancora non ci sono arrivato a 44.000 km, ce l'ha 15 anni, con la macchina ce l'ho già 15 anni, ma è nuova, nuova roba, sia dentro che fuori, il motore è ancora pulito, non l'ho mai lavato dentro il motore, è pulito, fiammante, per dirtelo, perché ho usato per tantissimi anni il motocarro, oggi che sono in pensione la macchina la uso poco e niente, anche perché ho l'altra, per cui non la sto sfruttando, però ce l'ho e me la tengo a disposizione, tanto se tu vai a venderla ti danno 4 lire, te danno, dico 4 lire per modo da dire, no. Però non la do, perché in caso si dovesse fermare una c'è l'altra che è sempre pronta, capite? E ma tu andi burubiano, non corre neanche. Mai avuto io la passione della velocità, mai, ma nemmeno quando ero ragazzo, lo stesso, in moto, lo stesso, andavo sempre piano, tanto è vero io, grazie a Dio, guarda, io ho la patente dall'età di 20, 21 anni mi sembra, sì, ho cominciato con la patente della moto, fate il conto, 40 anni so che 60 anni guardo la patente io, solo con la macchina, la patente della macchina ce l'ho dal 1966, ti puoi immaginare, fate il conto quanti anni sono passati, 66, sono 58 anni, io ho la patente della macchina da 58 anni, più altri 3 o 4 anni che avevo già la patente della moto, sì, che ti puoi immaginare, e grazie a Dio non ha mai avuto niente. No, ma sa, io già, sì, io già della vostra andaggia, forse manco un po' esagerato, non proprio, rispetto molto le regole rispetto a confronto di altri che invece sono paini guidenti. Io la verità, la macchina e la moto la faccio andare, però sono molto rispettoso delle regole, se mi devo fermare al passaggio pedonale io mi fermo, faccio passare il pedone. Eh beh, certo che è così che deve essere, io lo grido, ci mancherebbe altro. Le regole bisogna rispettarle, ci mancherebbe. Se no uno diventa criminale della macchina, di macchina. Invece no, bisogna regolarle. Certo, no, la verità, io non ho mai avuto la passione della velocità, mai. Quando ero giovanotto, magari la sera quando uscivo dal stabilimento, che allora ero anche in stabilimento, che la sera uscivo dal lavoro e me ne andavo lì in Piedestassi a Scala di Gioca, lì alla seconda curva, mi sembra la terza che fosse, a vedere le gare che facevano le mancanti, che vira, tipo John Pina, che vira, che so guato, una strampata che prendeva, è una cosa incredibile, però era pazzo, era botto, era forte, era bravo, perché era uno dei migliori che c'era nelle curve di Scala di Gioca. Ma ha fatto tante di quelle cadute, infatti che sono va un osso che non sia stato troncato, fratturato a tutti quanti russi che va in colpo. Ha un commosso già, a passo di mare, pare un prete pare, è diventato un predicante. Lo so, teologo, cosa c'è da cioè, infatti, infatti lui era, diciamo che era vicino ad una schiera di preti, infatti il locale che si è fatto lì a Pradarieta, che tra l'altro non l'ha mai terminato, perché gli hanno dato il contributo, aveva ottenuto dei contributi, se no non ho mai trovato manco questo locale, però buon per lui, anche lui ha diritto di lavorare, ci mancherebbe altro. Ma quando stabile tu lo vedi da tutte le parti che passa, da Pradarieta, Bari, un candelieri sfogliato, senza nessuno adorno, attorno, canto feo questo palazzo, Bacari dai, perché vedendo così per tantissimi anni dà anche fastidio. Oh, a me non me l'ha contenuta, poi lo può anche tenere sempre così, non me lo spero per dirlo, in tantissimi anni non è stato mai in grado di terminarlo quel palazzo, quello stabilimento, io cosa è. A chi? A casa sua, come è te, secondo te? La casa che si è fatta su via Carlo Felice, cioè, si è fatta da via Milano, si è sempre in Chivi, cosa è secondo te? All'incirca la matta si goza, solo che Chivi sta forse la grozzi sopra, la grozzi solo di dove viene buoni. È così, mi stesso, lavoro in compiuti, casino, così. Anche così, anche dove abita di casa è messo in quelle condizioni. Vabbè, si vede che non ha più l'appoggio dei preti per farsi dare contributi balle varie per poter andare avanti con i lavori. E allora va, tira a campare così, va la giornata. Vabbè, comunque, andare. Ma per dirti, no, quando era giovane questo qui, sempre con le moto truccate, non c'era giorno che non si andava lì a Scala di Gioca. A fare le curve, le pedane delle moto, tipo ad esempio Lambrette, Ballavari, allora strisciavano la pedana, strisciava per terra e c'era un buco dall'asfalto, usciva, perché come piegavano, come facevamo la curva, piegava molto, infatti ogni altra rampata tante voci, mamma mia. Ma per me sono solo macchine, insomma. Ma bravi ciò guidante, per me sono esibizionisti, ma che di catena, e boh, e come te dove ne erano bambi, non sorvedono, che da voi si sono fatti mari e basta, un vero autista che guida bene è professionale, no, non si scendeggiano, loro che fanno i cincani, diciamo. Poi li mettervi a guidare seriamente, non verranno, secondo me non vi sono manco buone. Sì, ma era così, infatti era così, erano mancanti, cabuguate con la moto, per carità. Lui era sempre da Mariani e lui lì gli sta moto da rimontata, lo mandato rimontata, la sera andava a fare gare in coso, ma che l'hai appiattata. Dugnarigli era sempre a consenti, per carità, certe cadute, certo lo sto dicendo, qui tutte le ossa che ha in corpo sono state tutte fratturate a una. uno, per anni cadeva e frattolava, e due era sempre in via Lomberto lì, che dove la Mariana, in via Lomberto, sempre in questa officina lì là. Ma ha fatto un poco di là, da chi si gabbi macchi, non era sorvento, no, quindi era neanche buro. Anche macchi cratello, forse buro di più, però lui era uno dei più coraggiosi, uno di quelli che, di quelle persone che si evidenziava a differenza degli altri, capito? Lui, non lo so per quale motivo, forse era stato notato in prima di altri, ed è per quello che aveva una certa notorietà nelle curve di sala di gioco, capito? La figlia strampate. Ma strampate però, la caridaia. Oh, yeah. Poi quando hanno incominciato ad esserci troppe cose, troppe gare, troppi incidenti, allora i vigili urbani, la polizia veniva lì e controllava la sera, allora la gente ha incominciato ad abbandonare le gare di scala di gioco. E poi da lì non se ne sono più fatte, adesso non lo so. Ma invece in base di impiattare segni, in base questi giovanotti che bisogna fare, a di lui di Manzano fare delle gare con la moto, disturbando il pubblico, cioè la gente che abita vicino, fa caridai. Da ci muore la battuta i chimi. La giudice un po' di borse. Infatti mi vuole la pattuglia lì, perché non è possibile, fanno le gare, fanno anche con le macchine, non solamente con loro. Io le ho sentite, cioè le ho lette tante volte sul giornale, le ho lette che facevano le gare lì al quadrato. Non è possibile, infatti più di uno ha protestato e anche chiamava i vigili urbani proprio per quel motivo lì, perché questi con il rumore anche alle 2 del mattino, con questo rumore della moto, vorrei né che vi volete mancanti. Ah, ma poi si muore la corricata, un po' di uno una giovizia anni passate. Spada vai, giù. Tutto cazzo fracassato, non c'è l'ambulanza, va. Beh, più dunque se è stato voi, c'è la lucrivo. Vabbè, cosa vuoi fare? Lasciamolo fare. So che abbiamo macchinissimo, per carità. Infatti, se stavo dicendo io, no, la verità, io anch'io ci sono stato ragazzo, però non ho mai avuto la passione di correre. Mai, la verità. C'era un periodo, quando io allora ero ancora a casa di mamma, che ero giovanotto, ero ragazzo, dai. C'era un periodo che facevano le corse in via Alessandro Manzoni, facevano sia salendo e scendendo, però le corse le facevano tipo che so io 100 metri, 200 metri, no? Iniziavano a fare dire da su, sino ad arrivare giù, a tutta velocità. Allora esistevano quelle moto, non so se tu l'hai conosciuta, anche tu sei giovane, la Lital, quelle moto 50 di cilindrata, ma non erano le 50, no? Erano i 250 come li truccavano. Infatti mi ricordo c'era un amico dai di allora che si chiamava Franco, buon'anima, ha avuto un incidente con la moto ed era morto. Lui chiamava me Franco Fredda Faccia. Più di uno mi chiede, sbada bom bom bom bom, ma che è così, no? Cioè, tutti si credono piloti, si credono, pigliano appena di Sabionina, non di Tescere. Infatti, oppure in via Valdeda, caspita, non mi ricordo uno, una volta questo qui era con una lambretta, ha incominciato da su in fondo, da via Valdeda, verso via Montello, no? Beh, a un certo momento è arrivato lì, dopo dove c'è lo stadio dei Pini, non è riuscito a girare, è uscito dritto direttamente al muro. È stato acuto un gabbo al muro e è stato ricoverato per un sacco di tempo all'ospedale, perché c'è salito sul marciapiede e il palazzo, era bianco di un palazzo. frenato, esecuto dalla velocità questo, o non ha frenato, non lo so come sia andato il giorno, mi ricordo, caspita, ma il giorno era stato brivato, c'è stata tanta paura, ma che tu sei ammazzato se, invece no, grazie a Dio già si era poi salvato, però è stato un sacco di tempo in ospedale, perché come ha sbattuto al muro, ha sbalzato e ha sbattuto la testa al muro, capite? Pura vuole entrare. No, sono stranieri solo, vedi. Ma è così. Uno con una moto deve andare giusto, deve andare, non deve fare un macco. Perché la moto è pericolosa, Io si capi, mi faccio un pezzo di retino, la bomba, poi dopo c'è mollo, la lascia andare, cioè no, no, non sono di chi... E sono caduto anch'io dalla moto, Anch'io sono caduto, però purtroppo ho scivolato nell'asfalto, Non è anche tanto quanto per colpa mia, Infatti, adesso, siccome ho fatto una scoperta, queste gomme che mi hanno dato le butto via fra un po', anche se sono ancora nuove, perché sono una merda. Mi hanno fatto cadere un parecchie volte sul bagnato e non va bene. Me ne sono accorto che c'era qualcosa che non andava. Ero grido, ma io ero caduto una volta tornando da Trentino, cioè io andavo tutti i giorni mandato dalla ditta, dove lavoravo sotto ditta, andavo con la mia moto a Trentino, perché a Capopalcone lì avevamo fatto noi il locale, no? Infatti io avevo fatto il bar che c'era lì, il rotondo, una cosa rotonda, era un bar all'interno del Capopalcone. Dunque avevano fatto l'inaugurazione, avevano fatto al ritorno, siccome viaggiavo in due sempre, io e un altro amico, un altro operaio che lavorava insieme a me nella stessa ditta, e il giorno invece lui ha detto vai che salgo con il bianchino, perché lì c'erano gli bianchini, i volatori, tutti gli altri viaggiavano con la moto sua o con la macchina sua. E io tornando da Trentino, in una curva larghissima, ampia, ma proprio ampia, veramente, che potevo entrare a tutta manetta. Beh, io nonostante che io stavo camminando piano, e non era abbassato un camion prima di me, e aveva buttato della sabbia per terra come aveva girato questo camion, mi ha fatto scivolare dalla ruota di dietro, mi sono guaggiuto come c'è un macco. Come sono caduto sono rimasto praticamente attaccato alla moto, no? E mi sono graffiato tutto il braccio, tutto mi sono graffiato. Mi sono buttato tutta l'estate che avevo il braccio fasciato, perché non volevo farmi vedere a casa, no? che ero caduto con la moto. E infatti usavo tutta l'estate, avevo usato la maglietta a maniche lunghe anziché a maniche, e mamma mi dice, ma come mai ti stai mettendo, non ti stai mettendo più le maglie a maniche? Perché il moto, dicevo, il moto c'è fresco, anche se c'è caldo, però il moto c'è fresco, dicevo. Invece non era vero, ma che io mi avevo arruolato tutto l'avambraccio, ce l'avevo tutto bruciato dall'asfalto, come l'ho caduto, no? Me l'avevo tutto graffiato. E la notte, quando entravo a casa, me lo curavo da solo, me lo curavo, no? il braccio, mi chiudevo in bagno, avevo le medicine adatte, avevo e me lo curavo. E sono stato tutto di fio, sono stato con le maniche lunghe e delle magliette, capito? In piena estate. Infatti prima i camion perdevano molte cose, adesso non si può più fare. Se no c'è anche tutti i bagagli, se li prendi il numero di targa ti devi pagare adesso, perché lui ha combinato un disastro. C'è un ignorante, cazzo, per carità, guarda. Poi la cosa più strana era che era l'ultimo giorno non ci sarei più dovuto andare a lavorare, perché avevamo finito il lavoro, avevamo finito. Però anziché salire in due, perché scendevo in due e salivo in due, e il giorno invece la sera sono salito da solo, perché lui ha voluto salire insieme ad un altro, è voluto salire un certo Salvatore che viaggiava insieme a me, che con la lambretta, io avevo la lambretta 150, avevo la special, allora era in quel periodo, passò con cagliù documenti a un macco, camminando piano, ti giuro che stavo camminando piano, ma non mi sono reso conto che c'era la sabbietta per terra, come ho girato la curva, ho fatto la curva, c'è uscito la ruota di dietro, mi ha scivolato e ne sono caduto come un macco e sono rimasto attaccato alla moto e la moto come ha strisciato mi ha trascinato anche me e ho strisciato il braccio per terra e me l'ha praticamente bruciato l'asfalto, capito? Perché è successa le cose anche per me? Paghissi motivi me. Per questi motivi qua che sono scivolato così. Sì, è rischioso la moto, quando trovi un po' di sabbietta non te ne rendi conto, sai, per cui poi con la strada con un solleone fortissimo la sera che ti paccava lungavo, ti paccava dal caldo, figura mi senti alla strada che c'era la sabbia, come ti fai, poi passavo tantissimi giorni passavo la mattina per scendere e la sera per salire, perché rimanevo lì, allora il plato rimanevamo lì, rimanevamo io e Salvatore, dunque la strada la conoscevo come le mie tasche, anche meglio per dire, no? Eppure il giorno ero da solo, fortunatamente ero da solo, non ero con l'amico di viaggio, per cui mi sono fatto male io da solo, capito? Infatti ha detto, tengo un po' questa gomma, poi prendo e la cambio, le metto le miscele, non me ne ha fatto niente. Quelle buone proprio, che no. Cazzo, queste continentali mi hanno deluso proprio. Deluso. La motovia era anche nuova, amico. Fortunatamente la moto non si aveva fatto perché mi aveva solo rovinato il coprisella del sedile, l'avevo rovinato, poi altri danni proprio alla moto non ce n'erano, e appena graffiata la pedana, il fianco della pedana come è strisciato per terra, mi aveva scorticato la vernice, ma quella già me la sono subito fatta io, no? Non aveva problemi, intanto io ho una certa manualità con la pistola per strussare eccetera, anzi ti dirò di più, quando poi si era piazzata un negozio di verniciatura lì a fianco a me, a fianco alla bottega mia, c'era un'officina, no? Quando quello era malato, il verniciatore, il carrozziere chiamava a me se gli strussavo le macchine, tu non hai idea di quante macchine gli ho verniciato io, lui la preparava tutto quanto, isolato, pronto, preparava vernice tutto quanto, quando era pronto mi chiede Giulio, guarda che sono pronto, ha fatto va bene, sto entrando, entravo una mezz'oretta e gli spruzzavo la macchina, gli spruzzavo tranquillamente, ma macchine intere, glielo facevo gratis di stare su un coso, capito? E qualche cosa ricambiava, perché fare quel lavoro non è facile, cioè non è... No, ma cosa li cambiava? Anzi, ti dirò che poi alla fine ci sono anche rimasto male, perché io avevo allora, mi ricordo, avevo un 1200 B, avevo, aveva la marmita bucata, no? E ho visto che lui stava saldando lì attaccata alla mossa, c'aveva una marmita stessa. Io ho preso il 448, ne ho tolto il terminale della marmita perché era bucata, e ho fatto Mario, mettimi subito una toppa anche qui là. No, non ho tempo adesso. Ah, non hai tempo, vabbè, io quando tu mi chiami sono subito pronto a venire a verniciare le macchine intere. Dalla volta non l'ha giovato più niente, capito? Perché lui era carrozziere ed era anche bravo, la verità, come carrozziere era anche bravo, mentre invece il verniciatore, c'era un certo Franco che era un po' malaticcio e ogni tanto si doveva sentare perché forse aveva avuto della malattia, sai, di quelli che verniciano continuamente senza maschera, senza niente, E allora dalla volta non l'ho più condiciato, perché lui non mi ha voluto, non mi ha voluto rattoppare la marmitta, ma tanto io adesso lo faccio un favore, è grande favore anche, e tu a me non mi vuole, 5 minuti, visto che hai anche il cannello in mano, a saldarmi un pezzo di lamiera nel terminale della marmitta. E vabbè, dalla volta non l'ho più. Ma tu è un miserabile. E questo si chiama, faccio anche il nome, Mario Perantoni, capito? Brava persona, la verità non è che sia un delinquente, è una bravissima persona, però lui era bravo a prendere a favore, ma a farne uno, l'unica volta che gli avevo chiesto un favore io non me l'hai fatto, ah così è. E vabbè, mi sono pentito che gli avevo fatto tutti quei lavori. Se ti sto dicendo, gli ho vendicato macchine intere, lui sì è vero, la preparava tutta pronta, tutta carteggiata, tutta finita, poi tutta isolata col giornale, eccetera, eccetera, e mi chiamava direttamente, perché? Perché lui non sapeva sfruttare, perché se si metteva a sfruttare la buona bande palia, una candela è chiarica, sai, quando si consuma la candela, che scende la cera a fianco alla candela, così faceva la vernice Edo. La buona vernice. No, non era capace a verniciare, non era capace a verniciare. Poi da lì aveva chiuso l'officina e si era trasferito di fronte ai giardini di Punti, si era trasferito. E da lì poi ci siamo anche presi di vista, perché ormai non eravamo distanti l'uno dall'altro, ma poi me l'avevamo a contatto così, eravamo la porta accanto uno all'altro, e se che era per quello che gli facevo questi favori. E a voi invece è palido e non lo più, non ho più avuto modo di contattarlo e di vederlo. Troppo la gente è imbecille, vuole troppo e non fare agli altri. E infatti lui era uno di quelli fra piglia, ma fra dare no, fra piglia e basta, cioè a pigliare lui sì, ma a dare no, niente. Infatti adesso in quell'officina che è chiusa, ho saputo che l'officina che aveva qui alle Punti, non so se se l'ha affettata o se se l'ha venduta, so solo che adesso c'è un lavaggista, adesso c'è un lavaggista e basta lì, poi io non so che fine ha fatto. Lui abita verso il campo dei Frati che c'è lì, andando per Villa Golizia, no? All'ingresso più o meno lì, prima dei campi o dopo, adesso non mi ricordo bene, ma lui abita lì di casa. Cazzo, fate bene ignorante, ma per Antoni sono pure chi l'abbiamo il beneficio, così è. No, chi se non metta niente, chi se un altro, quello non c'entra niente con loro, no. Lui era verniciatore, poi c'aveva un fratello, che credo che fosse geometra o qualcosa del genere, niente di più. Ripeto, come persona era una brava persona, non era educato, tutto quello che vuoi, però ingrato. Se si trattava di prendere per lui, favori lui, andava bene, ma farne lui no, noi la raccoglio. Ah, così è, tu sei frappiglia, ma fra danno. Ah, ci voleva un attimo, te la saldava e boh. Ma poi a dire che ti sto distogliendo dal tuo lavoro, ne ho approfittato io, mi sono messo subito sotto la macchina, perché bastava un mollare un dado e riusciva subito il terminale della marmitta, perché non era la marmitta, era il terminale della marmitta, e c'era un buco, c'era, e soffiava, no? Quando mettevo in moto soffiava. Stava già saldando, non è di ti sto facendo distogliere da un altro lavoro. Sei lì, attaccata al banco, sulla morsa, stai saldando una marmitta, ne togli una, metti l'altra, cosa ti gusta? Hai il cannello in mano, acceso, cosa ti gusta? Appugni un pezzo di lamiera subito, nulla da fare, no, non me l'ha fatto, ah non si, va bene, non ti preoccupare. Sono andato da Franco Abioni, dall'altra parte della strada, attraversando la strada Redda, c'era un altro carrozziere, Franco Abioni, e me lo sono fatto fare da lui, me lo sono fatto fare, tranquillamente, senza nessun problema. Che ignorante che è. È un deficiente, è stato un deficiente, perché non è possibile. Si è preso poi tutti i favori che gli facevo io. Infatti tante volte quando le portavano la macchina, che non la consegnava subito, il verniciatore che è ammalato in questi giorni, ma adesso mi già rientra subito, tu ne vedevi di macchine fuori in strada, già pronte alla verniciatura, però la verniciatura non arrivava mai, perché non c'era più il verniciatore, che Franco purtroppo era un giovane che si ammalava molto spesso, credo che avesse la silicosi o qualcosa del genere, capito, per il fatto delle vernici. E invece Giulio a lui l'ha salvato un sacco di volte, ma da allora non l'ho più fatto. Sì, siamo rimasti lo stesso in buona armonia, però io mi faccio il mio e tu ti fai il tuo lavoro, io a te non te ne posso più. Carità, guarda, è proprio una persona ignorante, cioè. Cosa hanno avuto? Chiama che doveva consegnare le macchine e non le consegna più, perché poi, per carità, guarda, mio zio era bravissimo verniciatore, mio zio Fiorenzo. Ok, capito. Lui si è dimostrato un miserabile, no? Sì, allora basta della buccia, infatti poi siccome tanta gente sapeva, anche la gente della strada, no? Che io gli davo una mano quando ne aveva necessità, che non c'era Franco, il verniciatore. Ma no, come ti mai? Non ne vernicerni più, ma no, non ne posso più. E raccontavo la storia, così è. Allora vai bene, non ne fai, vai. E mando a cagare, dice che non se lo merita. Come si dice? Mio zio lavorava da Silanos, ed era bravo. Silanos era una officina abbastanza molto nota a Sassari, so che lavoravano molto bene, certo che sì. Lì in via del Porto Torrio, che via è quella, sì, in quella via lì, Silanos era in quella zona, sì. E mi ricordo Silanos, salendo uno dei miei fratelli, e mi sembra che fosse morto battendosi al muro del cimitero con la macchina, perché ne è stato a tutta velocità, si era battuto al muro ed era morto lì proprio nel muro del cimitero. Già lo so, già. No. Mio zio era il verniciatore proprio suo, era molto molto bravo. Sì, infatti avevano anche il parco macchine del comune, avevano anche, perché quando lo tiravano il carattere, che lo tirava una macchina che non era in una posizione giusta, la portavano lì, che oltre a quello, oltre al lavoro dell'officina, guadagnavano anche dal comune, perché lui aveva le macchine parcheggiate nel suo cortile. Però l'hanno rovinato, poveraccio, l'hanno rovinato, non hanno bagagli di cose. Quello non lo so, non ti so dire niente, ma comunque so che era una bravissima persona, e so che era in gamba, i due fratelli, tutti e due, poi vabbè, uno era morto, però era una grande officina, molto nominata a Sassari. Dice, che te l'ha fatta? Ah, si va, ah sì, bravi, sono infatti, in effetti erano bravi. Sì, ne combinava casini, qualche casino già l'ha combinato, come tutti, però già conosciuti pure essere caballa diamante, cioè aveva concessionaria, ti ricordi? Sì, quella specie di quella macchina, non so che macchina era, comunque una macchina abbastanza veloce, ma ne ha stato dritto dal portatore, ne ha stato a tutta velocità, non so come sia andato questo giovane, e si è battuto proprio al buco del cimitero, guarda, la volta è stata una cosa veramente strana. E cosa vuoi fare? Magari era a vendere un macco, c'è tutto. Sì, infatti era a vendere un macco, vabbè, non c'era il traffico di oggi, tutto quello che vogliamo, è più di uno fa di un macco, in macchina e anche in moto. oggi non credo che potesse fare una cosa del genere, però la volta è stato un incidente abbastanza grave, è molto, sì, che si può immaginare, addirittura mi ha infondato un mezzabarette del rumore del cimitero. Per carità, che gentorante, però ho visto certi video in certi posti del mondo dove c'è un'ignoranza, c'è cazzo andare a picchiare il prossimo, cioè, ma veramente, buttarsi sotto il camion, cioè il camion girando, quello là, buttarsi la macchina, trascinarla, cioè ci sono certi posti che, cioè, diciamo, ci sono troppe regole in Italia, sì, in Italia è logico che ci siano troppe regole, perché bisogna anche saper guidare, bisogna conoscere le precedenze, bisogna conoscere i divieti. Io mi è capitato, c'è un romeno che lavora con me e mi ha spiegato come prendo la patente loro, ma pa' carità, cioè dice noi da noi è più difficile, ma cosa più difficile? Cioè in mezzo a tre domande sì, no, e poi cosa cavolo fate? Cioè fa proprio, cioè qua o no o non sì nelle domande, cioè, e poi ti segniamo le precedenze, ti segniamo questo, c'è molta disciplina qua, non è che mi uscì la patente. Cioè nel tuo paese mi fai credere che è più difficile, è perché te l'hai presa lì, non te l'hai presa in Italia la patente. Beh, certo che sì. Io, tu pensa, io ce l'ho di fronte, dove abito io di fronte ce l'ho la scuola guida. E l'altro giorno c'era sotto la finestra di casa mia, c'era questo giovane, un giovane della pelle nera, no? Che evidentemente lui aveva sì la patente già, ma del suo paese, però la patente del suo paese qua non valeva, non vale. E dunque si stava prendendo la patente qua nella scuola di fronte a casa, no? E come è arrivato l'istruttore, allora dice, oggi guidiamo? Adesso guidiamo, perché? Perché tu sei già pronto per guidare? Fatto sì, io so guidare. Fatto, vabbè, adesso incomincia a aprire il cofano, gli ha detto. E perché? Perché ti devo far vedere come fare lezione sul motore, sulla meccanica della moto, eccetera, della macchina, eccetera. Ma io lo so, c'è il motore, e sì, lo so che c'è il motore, è l'ultimo che c'è il motore nella macchina, poi mi devi spiegare certe cose, vediamo se tu le sai, non credo che tu le sappia. E dunque lui fa così, fa agli allievi, gli fa aprire, la prima cosa che fa, le apre il motore e gli illustra tutti i pezzi del motore, questa è la batteria, questo è il motore, questa è la sina dell'olio, e dove si mette l'acqua per il refrigeratore, tutte queste cose qua, no? E allora sono l'inizio della scuola guida, così l'indomani di nuovo è venuto di nuovo spregato, allora oggi guidiamo, eh? Guardato, adesso perché guidiamo? Tu sai guidare? Sì, io ce l'ho la patente. Come ce l'hai la patente? Sì, io nel mio paese la patente ce l'ho, solo che qua non vale, ha detto. Beh, lo sai che l'ha fatta sedere, ma vediamo un po' cosa sai fare. Se mi dice che ce l'hai la patente tu nel tuo paese, vediamo cosa sai fare. Beh, dal giorno l'ha fatto guidare e dunque tranquillamente faceva quella guida subito, a differenza degli altri allievi che invece le fa tutta una teoria, poi lo fa sedere dentro l'abitacolo, le fa vedere i comandi della macchina, tutte queste cose le spiega. Io li sento tante volte perché si fermano dopo la macchina, si fermano sotto casa mia e tante volte quello che le spiega, sai, con l'estate che c'è, con i finestrini abbassati, quando parlano io praticamente sento quello che gli dice, quello che gli insegna al giovane o alla persona che sta prendendo la patente, capito? Giulio, qua se tu non passi la teoria tu non ti bosi in macchina, ma non, anche se c'è la patente non ti siedi in macchina a guidare, magari ha fatto fare una prova così, ma niente di che, però no, non ti bosi tu a guidare, cioè c'è per lui la responsabilità, se non è la patente italiana, ecco, se non passi la teoria qua non si siede nessuno in macchina, compreso me, quando l'ho fatta, ma manco un'idea. Dopo ho cominciato a guidare, ma non come vogliono loro, cioè non come vuole, come, a meno che non si possa tramutare quella patente e diventare europea, cosa che ne dubito, è un paese, boh. Io in macchina già non ti bosino a guidare così. No, questo ragazzo, adesso io non te l'avevo detto, aveva già sostenuto l'esame di teoria e dunque era stato già promosso, no? Ma secondo lui però subito si doveva sedere e guidare, no? Invece no, prima Corrado volevo fare, ed è giusto così, però poi di domani, alla prossima lezione che gli dovevo fare, gli ho detto, ma io la patente ce l'ho, dice, ce l'ho nel mio paese qui, io ho sempre guidato. Ah, hai sempre guidato, vabbè, siediti in macchina, poi vediamo un po' cosa sai fare. Ho visto che seduto è partito tranquillamente, infatti dal giorno non l'ho più visto, evidentemente l'hanno fatto sostenere l'esame perché magari sapeva guidare veramente, perché no, è possibile così. Lui aveva già sostenuto l'esame di teoria comunque, però doveva fare la guida, doveva fare ancora l'esame di guida. Allora sì, no, che ne devi fare un po' di guida, non è così, è come vogliono loro. E poi bisogna vedere se fai bene all'ingegnere, quando sarai ingegnere bisogna vedere come ti comporti. Anche se ne fai mezza meno, fai mezza, hai finito di guidare. Perché adesso è così. Soprattutto se si siede scarpa, che è uno dei più carogna che ci sia in giro, quello ha crepato pure a me. Ma per una cazzata banale mio, mi ha detto che stava andando troppo piano, detto, ma avrebbe immaginato che le cose andavano bene però stavano troppo piano, che ero in traccio. Io ho detto, ma mi scusi, ma quanto devo camminare? Quello è uno stronzo, ma ha crepato tutta la classe pure, non solo a me. Tutta la classe ha crepato. Immaginate di che personaggio sto parlando. Cioè, vai così, adesso sono severi. L'ultimo esame che ho fatto della patente ce l'ho fatta, mi ha detto. Signor Maruta, comincia a sciogliersi, cammini, ci faccia la strada più breve per portarci a scuola guida. E io l'ho fatta, gli ho portato a scuola guida, gli ho portato. Sì, beh certo. Sì, ma è così. No, ma sai cos'è? Io ad esempio, quando ho preso la patente io l'ho preso nella scuola Olimpia di via Armando Diaz, l'autoscuola dove ho fatto io la scuola guida, che però tra l'altro sapevo già guidare e ti spiego perché. Intanto avevo già la patente della macchina, della moto, guidavo tranquillamente anche. Allora in quel periodo io facevo l'elettricista, non facevo il falegname, e lavoravo da Pino Mu a Santa Maria, un negozio di mobili, di elettrodomestici, TV e tutte queste belle cose qua, no? La sera io accompagnavo, cioè andavo insieme a lui con l'autista ad accompagnare il radiotecnico che era di Usini, questo qui era di Usini, siccome la sera uscivo un po' tardi dal laboratorio, mi faceva chiamare, mi ha detto Giulio ci viene a farmi compagnia, che accompagniamo il signor Brusa in paese, così, nei primi 2 o 3 giorni, ci andavo sempre la sera con lui, facevo la passeggiata a Usini, andare e tornare era facile, allora si passava da Molafà, si passava sempre, no? E tante volte, siccome io guidavo e sapevo guidare anche la macchina con la 600, la 600 quella con lo sfortello che apriva davanti, quando vedono le femmine che se ne scendevano a coscia aperta per le mutande delle donne, non era lo sfortello controvento, e tante volte mi facevo guidare al ritorno.